Andiamo tutti quanti al giro a tifare Pozzo Vivo. Qui lo dico e qui lo grido, viva viva Pozzo Vivo. Qui lo dico e qui lo grido, viva viva Pozzo Vivo. Buongiorno a tutti e bentornati a Radio Bidon, bentornati finalmente perché è un sacco che non ci sentivamo, ci sentiamo in colpa e ci scusiamo, d'altronde la colpa è anche vostra perché abbiamo lanciato una puntata chiedendovi domande, ci avete fatto pochissime domande, siamo tutti un po' abbattuti ma fortunatamente per questa volta ci stiamo tenendo su l'un l'altro perché Radio Bidon torna a una trasmissione diciamo collegiale, siamo tutti e quattro nella stessa stanza, anzi in cantina per la precisione, ci guardiamo in faccia e ci raccontiamo un po' com'è andata questa stagione 2016. Che è stata una stagione che ci ha anche saputo stupire finalmente, ci siamo sempre lamentati, io in particolare che tu mi dimentico sempre infatti. Di presentarmi, sono Filippo Cauz e con me ci sono Francesco Bozzi, salve. Leonardo Piccione, ciao. E Riccardo Spinelli, ciao. Io in particolare mi sono sempre lamentato del ciclismo moderno, continuerò a farlo, non preoccupatevi, va detto che in questa stagione finalmente ci siamo un po' emozionati, no? Ci siamo divertiti un sacco, quasi sempre, dalla primavera fino all'autunno, in particolare al Giro e alla Vuelta. Che si sono poi a luglio c'è cioè stato quel luglio. Quasi che è un po' il quasi di luglio sì, resta, ne abbiamo parlato poi anche diffusamente quella, però credo che in generale no, sia stata una stagione che ci è piaciuta, ci ha fatto divertire, emozionare in certi momenti che per certi versi, per molti versi ricorderemo, mi sembra. Sì sì, anche perché è successa appunto questa cosa strana che sono stati quasi più interessanti i grandi giri delle classiche, cosa che non si vedeva da anni e... io se posso dare un consiglio all'Unione Ciclistica Internazionale inserirei una grande corsa tappa anche a luglio, magari tipo in Francia, non so, una corsa un po' dinamica, che vabbè quest'anno c'è stato a luglio, non credo si sia corso, ma non lo so, potrebbe essere adesso nelle riforme del ciclismo magari. No, ma si è corso, cioè abbiamo anche scritto un libro, forse hai dimenticato questo particolare, ma vabbè, ecco, si è corso, ecco, qualcosa c'era. Vogliamo dire che è stata la cosa migliore del tour di quest'anno il nostro libro? No, non ce la tiriamo così. Non ce la tiriamo, senza, Francesco dice senza dubbio. La modestia toscana funziona sempre. Beh, perché se no, scusa Francesco, la cosa migliore del 2016 qual è stata? Ma direi che potremmo essere tutti d'accordo a dire la 15ª tappa della Vuelta, quella in cui il gruppo si è frantumato a pochi chilometri dalla partenza e Contador ha cercato di ribaltare la Vuelta e di fatto ha favorito Quintana, che poi ha accumulato un grande vantaggio su Froome, e anche il fatto su come Team Sky si sia polverizzato sotto i colpi di Contador e Quintana è comunque un fatto talmente raro e mai visto che comunque non fa piacere come sportivo, ma semplicemente no, ma nella corsa è... Ma è così, la novità introdotta da quella tappa della Vuelta è che appunto Froome e la Sky sono attaccabili anche in condizioni come una corsa come quella delle corse a tappe che loro prediligono. Sì, se non ha sorpreso il coraggio di Contador, ha sorpreso un po' di più il fatto che Quintana abbia voluto, no, partecipare a questo, esatto, attacco, e poi il fatto che la Sky si sia sgretolata completamente, quindi... E poi non dimentichiamo che è una tappa vinta da Brambilla, quindi comunque un eroe dei nostri tempi. Beh, e di questa stagione soprattutto. E di questa stagione, no? Apre prospettive interessanti sul futuro, perché anche poi ne parleremo più avanti, il percorso del Tour del 2017 un po' strizza l'occhio a questo tipo di percorsi dove si possono inventare cose così, anche se dubito si farà trovare di nuovo impreparata la squadra di Chris Froome. Probabile, io devo dire che in controtendenza credo che la cosa migliore del 2016 sia stata il Tour. No, non è vero, è stata a Tour, ovvero alla Parigi Tour, che vabbè è una corsa che secondo me ogni anno regala dei finali incredibili. Quest'anno l'hanno bella piallata per favorire i velocisti a una settimana dal mondiale di Doha. C'erano quasi tutti i velocisti migliori e c'era un signore pistard che si chiama Fernando Gaviria che gli ha veramente fatto ue come faceva Totò, e se n'è andato tutto solo sul rettilineo finale anticipandoli con una facilità quasi irrisoria, e sono cose che fanno bene agli occhi e al cuore. Ricordando che Gaviria è del 94, quindi 94. Fare un numero del genere vuol dire avere una certa personalità. Poi ha fatto un finale di stagione meno all'altezza dell'inizio, al mondiale si è perso un po' per strada e quando era tra i favoriti, però Gaviria è... Ce lo aspettavamo anche alle Olimpiadi, poi anche non è andata così. Io non me l'aspettavo a Sanremo, che invece era già lì a giocarsi la Milano-Sanremo praticamente, se non avesse avuto quella caduta di cui non è ancora stato stabilito di chi fossero le colpe. Esatto. Riccardo, tu invece, il tuo momento? A me invece ha entusiasmato particolarmente Scarponi, che è arrivato primo sulla cima, che era destinato al Giro d'Italia, no? Sì, al Giro d'Italia. Non solo a te, credo, abbia entusiasmato quella tappa. Ha scollinato sulla cima Coppi con quasi 5 minuti di vantaggio, era destinato praticamente a una vittoria di tappa, poi sulla discesa del Colle dell'Agnello la dannata caduta di Crosley, quindi poi si è fermato proprio letteralmente ad aspettare Nibali e l'ha traghettato verso Risul. Diciamo, ci fanno sempre impazzire questi gregari un po' eroici, quindi Scarponi cima. Ma poi lui si è fermato proprio, si è sceso alla bici, non mi ricordo se c'era Martinelli, Slong o chi ci fosse in ammiraglia. Io ho sempre pensato, cioè, considerando il carattere di Scarponi, che lo conosciamo, cosa si sarà detto con chi è uscito all'ammiraglia? Cioè, gli ha raccontato una barzelletta, non lo so, perché è stato veramente un momento surreale, che con un attore perfetto come Scarponi, nel senso, fosse stato il passistone, non so, Taramae, non me lo sarei visto più sì, di tanto protagonista. Difficile. Credo fosse Martinelli, perché poi era lo stesso del famoso giro del 2004 con Cunego, quando successe più o meno la stessa cosa e Cunego vinse il giro attaccando il suo compagno di squadra Simoni, quindi credo fosse proprio Martinelli. Io invece, se tocca a me... Tocca a te. Tocca a me. E non posso fare a meno di menzionare ancora una volta Elia Viviani a Rio, con la sua vittoria nell'Omnium. E credo che sia stato il momento più alto del ciclismo italiano nella stagione, quantomeno. Mi piace ricordare una cosa che lui mi ha detto quando ci ho parlato dopo, qualche settimana dopo Rio. Mi ha detto che quella vittoria lui l'ha vinta al Giro d'Italia, quella medaglia lui l'ha vinta al Giro d'Italia quando all'ottava tappa arrivò fuori tempo massimo, ma decise comunque di finire la corsa. Mi disse questa cosa: ho fatto in modo che la testa comandasse sulle gambe che volevano fermarsi, sono arrivato e ho detto devono essere loro a mandarmi, a eliminarmi dalla corsa, io non mi ritiro. Io ero nello sterrato di Poti quando... Tu eri a Poti, no? Quando Viviani arrivò, che praticamente c'era buio, e aveva una faccia di una determinazione incredibile, considerando che era praticamente a 2 ore dal gruppo. Fu toccante per chi era lì, perché le persone stavano... Non c'era quasi più nessuno e non si capiva perché la corsa non arrivasse. E questo è il motivo. Viviani voleva arrivare. Esatto, lui mi ha detto: io ho vinto la medaglia olimpica quel giorno, quando sono arrivato fuori tempo massimo mi hanno cacciato. Credo che sia un momento in generale, sia la tappa del Giro, sia ovviamente la corsa di Rio, da ricordare. Sì, sicuramente quella vittoria di Viviani è stato il momento più alto del ciclismo italiano in questa stagione. Secondo me è stato forse anche il momento più alto della rassegna su pista delle Olimpiadi, ma questo è un argomento a latere. Stiamo sul ciclismo italiano, innanzitutto ringraziando Luigi Trofa, che è il fan più affidabile della pagina Facebook di Bidon, ed è stato l'unico che ci ha posto una domanda su questa stagione 2016 e ci ha chiesto cosa ne pensiamo della stagione degli italiani. Ora, di Viviani forse abbiamo detto, a Viviani io attaccherei in generale anche un sollievo, per quanto mi riguarda da appassionato di ciclismo su pista, per come la pista in Italia, sorprendentemente vista la situazione in cui ci troviamo, abbia dato delle soddisfazioni, proprio perché abbiamo Ganna, che ha un'età talmente giovane che non mi ricordo neanche quanto è giovane, è campione del mondo dell'inseguimento individuale, abbiamo il quartetto sia delle ragazze del 96, che dei... Non ci voglio pensare, mi sento vecchio ogni volta che penso a Ganna, per cui non voglio neanche ragionare su questa cosa. I due quartetti e l'inseguimento a squadre, insomma, stiamo rivedendo un movimento su pista che si sta risvegliando. E i Vigorelli a Milano, è che sia di buon auspicio. Esatto. Poi cos'altro ci ricordiamo? Tornando alla strada, invece abbiamo, ma la solita fatica un po' ormai cronica degli italiani nelle corse di un giorno, per quanto ci sia l'unico baluardo che continua a macinare buoni risultati come Gasparotto, e che è un po' un unicum del nostro movimento, anche se forse qualcosa si muove con Colbrelli. Con Colbrelli, certamente. Sicuramente. E con i giovani, alcuni dei giovani che hanno fatto bene quest'anno, mi viene in mente Ciccone al Giro, e Conti, Valerio Conti, alla Vuelta e non solo, e Moscon un po' qua e là, anche nelle classiche, soprattutto nelle classiche. Poi Diego Rosa al Giro dei Paesi Baschi con 100 km di fuga solitaria. A Lombardia anche. Grande protagonista anche a Lombardia. Meno protagonista di tutti loro, forse quest'anno, è stato Fabio Aru, dobbiamo dirlo, no? Eh sì, la domanda ci arriva da un sardo, ed è proprio il sardo del ciclismo italiano, che insomma, adesso diciamolo, terra terra è da bocciare il suo 2016, penso che questa cosa sia evidente. forse addirittura non solo sul ciclismo italiano, in campo internazionale Aru è proprio un po' dei corridori, il quello corridore che ha deluso, che un ha po' deluso di più, in questa stagione più. Io più che il povero Aru, ma povero perché vabbè, avrà anche le sue responsabilità, ma poi capita a tutti una stagione sbagliata, quello che vedo della sua stagione è l'ennesima dimostrazione di come sia stupido puntare tutta la propria stagione su un appuntamento solo, perché un appuntamento... E quando il tuo appuntamento solo è il tour in cui hai Froome, Bardet, Quintana come principali avversari, che ovviamente hanno un'esperienza diversa e forse anche un talento diverso, ma non è quello il punto, perché comunque Aru ha fallito in termini di approccio alla gara e di preparazione probabilmente, quindi quello dispiace perché è un ciclista che darebbe tutto durante che la corsa. Che dà tutto comunque, quindi... No, mettiamola così, è stato un errore, se vogliamo considerarlo un errore, che poteva permettersi, visto l'età, visto quello che già ha ottenuto, nonostante sia un ragazzo del 90, quindi concediamogli il fatto che quest'anno abbia fallito, un fallimento che ci sta nel percorso di crescita, che appunto possa portarlo a migliorare ulteriormente, perché le potenzialità, lo sappiamo, ci sono tutte. Fare un po' più corse e un po' meno ritiri, secondo me, perché poi un appuntamento solo puoi anche prepararlo il meglio che puoi, anche essere più forte di Froome quel giorno, ma basta anche una caduta, per esempio, e quell'appuntamento te lo sei giocato. Poi esatto, le cadute cambiano in tanti modi, no? I risultati l'abbiamo visto, certo, anche quest'anno, sì. Forse con il nome principale del ciclismo italiano, che è Nibali, no? Le cadute danno e le cadute tolgono. Esatto, sì. Nibali, l'anno di Nibali è stato comunque positivo, perché ha vinto un Giro d'Italia in un modo che ricorderemo a lungo, credo, con la tappa di cui già abbiamo parlato brevemente prima. Magari lo rivedremo tutte e due in squadre diverse l'anno prossimo, forse da avversari, tutti aspettano la loro rivalità al Giro del 2017, ma il 2017 parleremo dopo. Restiamo su Nibali e Olimpiadi, e non si può non parlare. Protagonista sfortunato, come era stato magari fortunato al Giro, però poco conta la fortuna, l'importante è esserci, e in quel momento Nibali c'era, mentre altri non c'erano, erano in fuga con Maika e Nao, quindi se la sarebbe giocata sicuramente, e quantomeno ha provato ad essere tra i migliori, e lo era, quindi insomma direi sostanzialmente un buon Nibali. Sì, un buon Nibali. Però hai introdotto tu questa nuova categoria della nostra chiacchierata di oggi, del giornalismo internazionale, non della nostra chiacchierata di oggi, che è quello che ci piace chiamare il momento what the fuck, ovvero quel momento in cui succede quella cosa che proprio non te l'aspetti e ti cambia la percezione di una corsa o di qualsiasi. I momenti what the fuck ci capitano poi anche al di fuori del ciclismo, se esiste una vita al di fuori del ciclismo. Nibali sicuramente è un esempio, sì, no? Nibali, la caduta di Nibali a Rio certamente è uno di questi esempi, che tra l'altro non abbiamo neanche visto, capito come è accaduta. Nessuno lo sa tranne una lui, caduta forse. Posteriori, abbiamo visto solo gli effetti. Mentre il tuo momento what the fuck è una vittoria, mi sembra, Filippo. Beh, sì, nel senso, ve l'ho già preannunciato, il mio momento what the fuck è la vittoria di Eyman alla Roubaix, ma non è per Eyman, per carità, quando vince un corridore così c'è sempre da essere felici, sia chiaro. Io in quel momento ero letteralmente in piedi sul divano con la birra in mano per festeggiare l'ennesimo trionfo di Tom Boonen, e vedere Boonen che non riesce a passare Eyman che taglia il traguardo incredulo è stato letteralmente uno shock, di cui ancora secondo me in parte non mi sono ripreso. Poi non so voi sui vostri momenti what the fuck, magari sono meno scioccanti. Francesco, non lo so. No, scioccante è scioccante, perché quando vedi Trentin arrivare al Giro festeggiare a petto nudo è comunque uno shock, è uno shock di tipo diverso, perché non è una delusione, ma anzi è un'emozione, un'esaltazione particolare, perché vedevi una tappa che era assegnata di fatto. Moser era pronto a alzare le braccia con il solito Brambilla, che ormai è un po' come il prezzemolo, e invece il solito Brambilla, senza far niente, è riuscito a farla vincere a Trentin, con quello sguardo a 600 metri dall'arrivo di Brambilla che si volta, vede Trentin e fa un mezzo sorriso come a dire ora lo freghiamo, e quindi quella fantastica. Foto è bellissima, forse è una delle foto degli scatti, sì, più belli di quest'anno, sì, secondo me, nella, sì, sua drammaticità per Moser. Sì, quello tra l'altro secondo me è il momento what the fuck di Francesco Bozzi, ma è il momento what the fuck della carriera di Moreno Moser, sì, probabilmente, sì, esatto, è la carriera di Moreno Moser. Certo, quella foto è bellissima, ce la ricorderemo, anche perché poi quando c'è un corridore coi capezzoli al vento è sempre entusiasmante. Poi la foto che ci ricordiamo è il momento what the fuck di quest'anno, però è un altro, e lo sarà forse, sì, anche del decennio, no? E sarete d'accordo che probabilmente è il primo in questa rubrica, che è Chris Froome, che che corre sul Vantoo. Io non ero fuori casa, sono rientrato in casa, accendo la televisione e vedo questo qua che corre sul Vantoo e mi chiedo ma... No, intanto scusa, tu eri fuori di casa il giorno del Vantoo. Sì, sì. Questa cosa avevo, avevo un esame, le classiche cose poco importanti e purtroppo dovevo darlo e rientro in casa, accendo e vedo questo qua. È surreale, surreale. È stato un momento davvero... Un momento anche di televisione incredibile, io dei telecronisti così nel pallone, così impossibilitati a raccontarlo. Silvio Martinello era arrabbiatissimo, e diceva, continuava a dire non è possibile quello che stiamo vedendo, ma d'altra parte era davvero qualcosa di... No, è qualcosa che, cioè, è veramente, io credo sia entrato nell'immaginario collettivo del ciclismo. Io mi capita spesso di vedere anche tanti video amatoriali, cose così. Quest'anno di gente che si mette a correre imitando Froome, ne ho visti un sacco, c'è Wiggins che l'ha fatto al Tour of Britain... Sì. Non so, l'altro giorno vedevo un video di cicloturismo di un amatore che si è fatto tutti i passi principali dei Pirenei, della Francia e dell'Italia, e chiaramente quando è arrivato sul Vantoo è sceso, si è messo a correre, cioè una cosa che veramente... Che tra l'altro, diciamo, io appena l'ho visto ho immaginato, ecco il momento in cui il Tour de France diventa divertente, pur dispiacendomi perché queste cose non devono accadere, però poi vabbè, ci sono stati tolti i secondi, sì, di svantaggio. Sì, poi c'è stato un gran casino. Scelta, un gran casino, esatto. È un momento che ci ricorderemo nella sua drammaticità, perché poi è una drammaticità fortunatamente risoltasi solo con un gran casino. Purtroppo dai momenti da ricordare ci sono anche tante cose che sarebbe bello dimenticare, e penso che proprio a questo si ricollega un problema che il ciclismo soffre da tempo ma che quest'anno è esploso, che è la difficile se non impossibile convivenza con le auto e le moto in particolare, che ha provocato una serie di cadute purtroppo anche drammatiche, la morte di Demoitier, Stig Brooks che è ancora in coma, e diciamo questa è una cosa che sicuramente ci vorremmo dimenticare, ma non di quest'anno, di questo ciclismo in generale. Sì, è un problema cronico che sembra che non sia ancora affrontato a grandi livelli, però dovrà esserlo, perché gli incidenti si stanno acuendo e stanno diventando sempre più gravi, quindi è un problema che i ciclisti e le organizzazioni devono assolutamente affrontare. E visto che mi sembra siamo entrati nella categoria delle cose un po' da dimenticare di questa stagione, se ovviamente non è paragonabile agli incidenti che sono accaduti su strada, però mi viene da dire che anche il discorso, lo scandalo come qualcuno l'ha chiamato, delle eccezioni terapeutiche che ha visto coinvolto Bradley Wiggins nelle settimane successive alle Olimpiadi con l'hacking da parte dei russi, non è stata una pagina bella, soprattutto per l'immagine di Wiggins. Ovviamente non entriamo ora nei dettagli di questa storia che è complicata già di per sé, magari ne entreremo perché è qualcosa che comunque di cui bisogna parlare, perché riguarda un aspetto ancora molto oscuro del ciclismo moderno, che è questo appunto delle eccezioni, esenzioni che vengono fatte in alcuni casi. Resta questa immagine di Wiggins, un po' questa macchiolina su questa figura quasi mitologica che è Sir Bradley Wiggins, che ha mentito, quantomeno nella sua biografia, autobiografia, sul fatto che avesse mai fatto ricorso a questi cortisoidi, qualcosa del genere. In realtà non sono sostanze dopanti, ma che comunque favoriscono, pare, il calo di peso durante certe situazioni pre-corsa. Comunque non entriamo nel dettaglio, non ci è piaciuto il fatto che il suo nome è stato associato a una vicenda non divertente, come invece lui ci ha abituato a fare, a essere presente. No, tra l'altro ce lo dici indossando una maglietta dei fan di Wiggins, se non sbaglio, o è solo una somiglianza forte? Una somiglianza. Wiggins, che non sappiamo quanto andrà avanti a correre, aveva detto che si sarebbe ritirato in questo giro di 6 giorni di quest'inverno. Adesso fortunatamente Wiggo è uno che se non sorprende non si diverte, per cui ha detto che se gli arriva l'offerta giusta va avanti lui. Invece ce ne sono tanti che smettono, che ci lasciano, mi veniva da dire, ma forse sembra un po' drammatico. Abbastanza. Ci lasceranno vuoti i pomeriggi, mettiamola così, perché c'è una sfilza di corridori che qua possiamo elencarne qualcuno. Ce ne siamo se scritti vogliamo un po', ma sicuramente manca ancora qualcuno. Comincerei da te e quindi da Ryder Ejedal. Per me Ejedal è un corridore che, per carità, l'Ejedal visto quest'anno non mancherà sicuramente, perché non ci ricordiamo nulla in sella di questo si questo è goduto canadese. Si è goduto quest'ultimo anno tra i pro. Lui se l'è goduto, noi ce lo siamo goduto in altre occasioni, e io penso che l'esito del Giro dell'anno scorso innanzitutto sia stata una delle più belle dimostrazioni d'amore per questo sport che si siano mai viste. E è un corridore sicuramente che non passerà alla storia del ciclismo canadese, visto che è il primo canadese ad aver vinto il Giro d'Italia, e mi sa che ce ne sarà parecchio da aspettare perché ce ne sia un altro. Ci sono anche corridori più di certo più importanti nella storia del ciclismo che lasciano. Cioè, peraltro ci ricolleghiamo anche all'unica altra domanda che ci è arrivata via Twitter, per cui ringraziamo Lorenzo Sattler che ci chiede cosa ne sarà della primavera dall'anno prossimo senza cancellare Bonen. L'anno prossimo ce lo godiamo. Cancellare ad esempio è già in ferie, cancellare in ferie ha mantenuto la promessa che aveva fatto inizio anno, a differenza di qualcun altro che ha promesso di smettere, in realtà si è fatto convincere. Si è fatto commuovere, ma ci fa piacere. Però Cancellara ha smesso alla grande, ha vinto l'oro olimpico nella cronometro. Cos'altro dire su Cancellara? Che ci dispiace perché se ne va di fatto avendo fatto una stagione con tante vittorie, quindi è sempre anche bello che uno smetta all'apice, in un certo senso, è quello che lui voleva ed è riuscito a ottenere. Non tutti ci riescono, cosa che non è riuscito a fare Perot, per esempio, per sfortune perché la caduta brutale al Giro l'ha estromesso subito, per quanto probabilmente non sarebbe stata la sua stagione. Però un corridore esploso tardi dispiace che sia finita senza potersi esprimere. Ricordiamo che Gianni Mura, quando l'abbiamo intervistato, ci diceva che il migliore dei francesi ancora quest'anno era Perot. Poi aveva delle grosse difficoltà a portare a termine delle corse. La Vuelta l'ha portata a termine, purtroppo è stata anche quella che ha portato a termine la sua carriera. Chi le corse le portava a termine sempre anche se facendosi un po' attendere, era un altro dei corridori che più ci mancheranno a tutti noi appassionati di maglia nera, il vero cannibale delle maglie nere del nostro ciclismo, il grandissimo cinese Chen Ji, che benché non ancora in età pensionabile ha deciso di appendere la bici al chiodo. Credo che abbia dato talmente tanto alla storia del ciclismo che effettivamente anche lui, come Cancellara, smette al top. Insomma, lui smette al top, lui ha detto che smette soltanto perché vuole dedicarsi alla famiglia, perché fisicamente sta benissimo. Ha detto: guarda, io sto come mai sono stato prima, però c'ho una moglie, c'ho dei figli, vado in Cina e sto con loro e insegnerò ciclismo in qualche scuola. Quindi salutiamo anche lui con tutto l'affetto possibile. Chissà quanti campioni cinesi ci saranno. Quanti campioni cinesi della sua scuola verranno. E il team Bahrain ne ha appena acquistato uno, Wang, dicono che si parla bene di lui. Il cinese più forte di tutti, forte di Cheng Ji, ne dubito. Vedremo. Gli italiani invece? Tra gli italiani abbiamo scelto Alessandro Malaguti, ne abbiamo già parlato su Facebook qua e là, che si ritira anche lui a 29 anni. Ci ricordiamo soprattutto di lui negli ultimi anni, nell'anno scorso la tappa di Forlì del Giro, quella sua sconfitta che ci emozionò e ci fece tristezza in un certo senso. Ci lascia anche lui, ci lascia sempre dalle corse professionistiche. E poi ce n'è un altro che non dico che non pedalava, perché pedalava più di tutti noi sicuramente, ma anche di buona parte del gruppo, ma non pedalava da un punto di vista agonistico, che lascia questo ciclismo. E beh, io so che Riccardo è il suo più che un fan, è quasi uno stalker. Abbiamo già reso omaggio a Oleg Tinkov e continueremo ad amarlo e a sostenerlo anche lontano dal ciclismo. No? Sì, ci mancherà, o forse no, dobbiamo ancora deciderlo. È un personaggio particolare, però sì, mancheranno un po' di materiale, mancherà qualche suo stato. Avremo meno tweet divertenti o status Facebook da condividere. Dovremmo magari trovare... di più. Cioè, magari adesso magari che esce dal ciclismo twitta come un pazzo, liberi. Beh, non che prima non twittava come un pazzo già prima. Però magari non sarà sul ciclismo, quindi dovremmo creare una pagina solo per Tinko negli Stati Uniti. Che sarebbe interessante lo stesso. Diciamo che nel nostro slogan ciclismo allo stato liquido, sappiamo che lo stato liquido è sempre stato una grande passione di Tinkoff. Sì, parte con la birra, no? Quindi li troviamo alla perfezione. Ok, restando in casa Tinkoff, siamo arrivati fino a qui parlando parecchio della stagione 2016, non abbiamo ancora nominato Peter Sagan. Questa cosa è vergognosa perché chiaramente, diciamocelo, è il dominatore di questa stagione, è il dominatore di questo ciclismo, è un corridore che, come lo possiamo definire, Francesco? È quello il punto, perché spesso si dice non ci sono più aggettivi, e invece noi li abbiamo trovati gli aggettivi, o almeno trovati, ci abbiamo inventati, diciamo. E quindi direi che forse Filippo aveva quello che meglio riassumeva l'anno di Sagan. No, beh, ma io penso che ci vorrà, cioè ce ne saranno veramente, non so, potrebbe diventare un filone letterario trovare degli aggettivi per definire Sagan. Penso che il ciclismo dei prossimi anni dibatterà su questa tempo cosa, ma forse pensarci. Anche la letteratura dei prossimi anni probabilmente. Io, a me era venuto questo neologismo che è iridente, che con una R, no? Con una R, con chiaramente una R, perché nasce da iridato. Ovviamente Sagan ha appena fatto una doppietta, chissà quanto durerà la sua serie di mondiali vinti, e l'ha fatta anche quest'anno irridendo gli avversari, ma soprattutto ridendo, insomma, emanando felicità e umiliando sportivamente gli avversari, ma poi in realtà facendolo sempre, cioè, col no, sorriso. Mi piace perché riassume proprio tutte le sue caratteristiche, il fatto che sia campione del mondo, che irrida gli avversari e che rida, che nel ride. Senso che faccia tutto con questa gioia che emerge da qualsiasi cosa lui dica e faccia. Mi piace evidente. E iniziate ad usarlo, così magari l'Accademia della Crusca petaloso, esatto, lo stiamo sfidando, lo Renzi qua. Anche Riccardo aveva un nuovo logismo. Io avevo trovato metamerxiano, perché si dice sempre che Sagan è il nuovo Merx. Lui ha tenuto sempre a precisare che non vuole essere il secondo Merx, ma il primo, vero. Peter Sagan, e ha ragione, perché è profondamente diverso secondo me, nel senso che lui vince perché è il più forte, però non ha la stessa ossessione di Merx per la vittoria, si diverte e di conseguenza vince, e quindi è oltre Merx. E io invece, proprio collegandomi a quello che dici tu, è bello anche metamerxiano, però direi esiste già un aggettivo per lui che è saganiano, semplicemente, proprio anche perché metamerxiano nessuno lo scriverà mai correttamente, esatto. Perché forse ci conviene, esatto, saganiano invece già qualcuno lo usa e credo che possa diventare un aggettivo di utilizzo comune descrivendo un certo tipo di approccio, un certo tipo di vittoria, un certo tipo di, sì, di amore per questo sport, per amore per la vita in generale, che è quello che lui ha. Quindi saganiano secondo me è calzante e preciso. Sì, che poi fondamentalmente, tirando una somma dei nostri aggettivi, viene fuori la figura di uno spietato, ma spietato nel senso buono, non che sia uno stronzo, però che sia una persona, sì, che non, sì, abbia, sì, pietà, sì, intesa, esatto, come elargire misericordia a chi non ne ha bisogno. Semplicemente lui si prende quel che deve prendersi dal ciclismo e probabilmente anche dalla vita. Però chi perde da lui, ecco, non è mai arrabbiato o no. Deluso troppo, perché ha perso da Sagan, si perde da Sagan in come generale. Fai a non, come perder fai da non Sagan. Perdere da Sagan? Beh, l'assenza di pietà è di fatto una forma di rispetto, quindi. Esatto, è una forma, l'estrema forma di rispetto, probabilmente. Sì, lo abbiamo visto a Doha, per il secondo anno di fila il mondiale finisce con l'immagine di Bonen che fa i complimenti, che fa i complimenti a Sagan, sì. Non so, forse magari anche un passaggio di consegne. Adesso l'anno prossimo il passaggio di consegne di Bonen ci sarà ufficialmente. Scusate la voce rotta, ma mi sto già commuovendo pensando alla prossima Parigi-Roubaix, pensando anche un po' a una stagione che ci aspetta, in cui ci aspetta questa stagione, ma cosa ci aspetta? Sappiamo già cosa aspettarci. A parte il terzo mondiale consecutivo di Sagan a Bergen, a parte oltre questo, dice. Il fatto che diventerà d'uso comune, ancora più difficile da scrivere, l'aggettivo kreuzvecchiano. Intendendo una caduta, stai già preannunciando una caduta nel momento apice della corsa. O intendendo una doppietta giro tour. Io dal 2017 vorrei. Questo è il tema forse più vorrei... caldo in questo momento. Cioè, no? non dico la doppietta, però vorrei, poi ce l'auguriamo ogni anno. Però adesso ci sono quasi, non so, c'è quasi il sentore che sarà che è il giro del centenario, sarà che è un giro più facile degli ultimi anni. Potrebbe esserci. Beh, sì, dai, un po' più facile, soprattutto l'ultima settimana non è una settimana di tapponi, sì, massacranti, no, come ci aveva abituato, e non lo so, magari penso a Quintana ovviamente, ma non lo so, magari qualcuno ci prova davvero, poi se ci riesce o non ci riesce mi interessa anche meno, mi basterebbe rivedere. Sì, Quintana è il più papabile per questo tentativo, che sarebbe il primo dopo quello di Contador del 2015, e secondo me non sarà l'unico, perché probabilmente anche Chavez tenterà questa accoppiata. Salt Tour, non forse, sì. Con i gemelli Yates. Sì, forse è da vedere un po' questa cosa qua. Forse Froome, che ha fatto i cuoricini al percorso del Giro d'Italia su Twitter, nel senso che è un giro che gli si addice particolarmente, ci sono delle cronometro anche abbastanza lunghe che non ci sono invece al Tour. Prima o poi dovrà mettere piede in Italia. Prima o poi dovrà tornare, perché quindi... lui, l'ultima immagine che abbiamo è lui trainato dalla moto sul mortirolo, squalificato. Non gli fa onore. Quindi... Non gli fa onore, tornerà, sono convinto che torna. Vediamo se già nel 2017. Perché sì, appunto. Perché ha comunque dimostrato di saper fare bene due giri nello stesso anno. Esatto. Perché alla Vuelta alla fine è arrivato secondo. Avrebbe vinto se non fosse stato per quella giornata di cui abbiamo parlato prima al Formigal. Invece, il tour è stato invece proprio disegnato per provare a metterlo in difficoltà in qualche modo. Non ci sono grandi tapponi, ci sono tutte queste tappe un po' intermedie con possibili imboscate. E qui ci aggiungo una mia previsione o auspicio, non lo so, per il 2017, un tour dove uno come Daniel Martin possa fare molto molto bene. A metà tra la distopia e un auspicio che rischiamo con Daniel Martin. Siamo quasi vicini a un tour che Sagan, dove Sagan possa lottare per un podio. Che a quel punto diventerebbe il sogno di qualunque appassionato. Non escluderei, non escluderei che nei prossimi anni un tour o una Vuelta possano assecondare le caratteristiche gli di aggettivi come Sagan. Per Sagan, esatto, così avremo modo per trovarne altri, perché secondo me Sagan non è un Wiggins che diciamo rielabora il suo fisico per, è più facile che il tour, che esatto, è anche così grande lui da far abbassare il tour alle sue esigenze. È metaturiano, metaturiano. Sagan poi lo vediamo in realtà puramente nelle classiche. Adesso, dire cosa ci aspettiamo dalle classiche la prossima stagione sarà dura, tornando anche alla domanda come sopravvivere alla primavera. Cominciamo a vedere come va quest'ultima Roubaix di Bonen e poi vedremo, sopravviveremo sicuramente, anche perché quando c'hai Sagan, c'hai Van Avermaet, c'hai tanti di quei nomi che ce ne sarà da divertirci ancora nelle prossime primavere. Il problema è arrivarci, perché adesso dobbiamo superare l'inverno. Come facciamo? Leggere, bisogna leggere tanto. Ci sono libri più e meno buoni. Tra la categoria più buoni c'è sicuramente quello di Gregori su Merckx. È un malloppone, sì. Quindi sarà ottimo per passare dei mesi, rileggere, informarsi. Quindi sicuramente quella è un'opzione. Sì, io ne segnalo anche un altro di libro perché è appena uscito, si intitola Pro Cycling Territory di Paolo Bozzuto, che è un amico e un nostro sostenitore, e sta facendo una riflessione molto interessante su come il ciclismo professionistico abbia un ruolo nello sviluppo dell'urbanistica del territorio. È un libro quasi accademico e mi sento di consigliarlo a tutti. E oppure potremmo guardare su Rai Sport le tante volte in cui fanno rivedere la Coppa Agostoni vinta. La mitica Coppa Agostoni. Quella sicuramente andrà avanti anche nell'inverno. Le vacanze di Natale passate a guardare la Coppa Agostoni. No, aggiungo soltanto una cosa. Francesco ha detto bisogna leggere. Io aggiungo anche bisogna scrivere, come dicevano anche i Baustelle in una canzone. E magari scriveremo anche noi qualcosa. Però su questo torniamo poi, noi di Bidon, torniamo con i dettagli più avanti. Non vi diciamo ancora qualcosa, lo abbiamo anche già scritto. Qualcosa l'abbiamo scritto. Tornando che l'autunno-inverno, poi io consiglio sempre a tutti di trascorrerlo anche guardandosi il ciclocross, perché anche questa stagione, benché non ci sia più il divino e diabolico Sven Ness, è una stagione che si fa apprezzare. Qualcosa lo abbiamo scritto, si chiama Se qualcuno viene mi fa piacere, esatto. Ormai ve l'abbiamo ripetuto fino alla nausea, però se state quantomeno a Milano o nei pressi possiamo dirvelo in faccia, o potete dirci in faccia cosa ne pensate, o accettiamo anche gli insulti ben volentieri, soprattutto gli insulti se volete, soprattutto. E il prossimo 24 novembre è un giovedì sera, l'orario sarà intorno all'ora di cena più o meno, adesso diffonderemo tutti i dettagli con precisione, lo presentiamo finalmente faccia a faccia alla stazione delle biciclette nel quartiere Barona a Milano. Ci sarà Claudio Gregori, che abbiamo citato per il suo capolavoro su Merckx, ha scritto anche l'introduzione al nostro libro, che non è un capolavoro lavoro come il libro su Merckx, ma è sicuramente il contenuto migliore del libro, e ci sarà l'occasione per parlarne di persona, per conoscere anche... Quindi ripetiamo, il 24 novembre... La stazione delle biciclette, quartiere Barona. Tutti i dettagli li mettiamo sul nostro sito e su tutti i nostri social nei prossimi giorni. Vi invitiamo perché soprattutto c'è la birra artigianale per l'occasione. Bene, questo è un motivo più importante per esserci allora. Non ci saremo tutti perché non tutti siamo a Milano. Infatti, Leonardo, ti vedo frenetico, sì, stai sì, scappando. Sì, devo scappare, si è fatto una certa e c'è un aereo che parte tra poco e vi devo proprio lasciare. Però mi sembra che insomma questa chiacchierata l'abbiamo fatta, un po' di punti fermi li abbiamo messi. Che altro dire se non ringraziare voi che ci avete ascoltato e seguito per tutta questa stagione. È stata una stagione anche per noi, nel nostro piccolo, estremamente positiva e divertente, soprattutto, che poi alla fine è la cosa che ci muove, ci spinge a continuare con questo piccolo progetto che stiamo facendo. Grazie per tutta la stagione, per oggi, grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Alla prossima, quando sarà. Vedremo, come diceva Gianni Bugno. Vedremo. Ciao. È un corridore che tutto per pecore, indovinalo un po' tu. È un fatto strano, è proprio un italiano, è Dino Dandegu. Bene.